Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Le 21 passate da un minuto di questo giovedì 14 novembre 2013. Buonasera, come di consueto, al giovedì sera con Agostino Spolaore e soprattutto con il mio fedele compagno, come amo dire io. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera è un live del quale noi siamo molto ma molto fieri, perché abbiamo un grandissimo personaggio. Abbiamo Max Manfredi assieme al suo chitarrista, al suo accompagnatore, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima ancora di ascoltare la musica e la voce di Max, vi ricordo i nostri dati, ovvero sia il nostro numero telefonico in studio allo 049 875 6423, mentre per i vostri sms vi ricordo il 346 23 20 033, e poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blue Radio Veneto, una, l'altra è Blue Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, che salutiamo. E poi ancora il nostro sito dove ci potete ascoltare in streaming, ovvero sia www.blueradioveneto.it, e lì appunto nella home page c'è scritto ascolta la radio, cliccando lì si può sentire la nostra emittente in diretta 24 ore su 24. Se invece ci state ascoltando via radio, come si suol dire, magari in auto, perché no, stasera sarà una serata splendida di musica di qualità italiana. Allora, le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. E poi ancora, cosa devo dire? Maurizio, aiutami tu, manca qualcosa magari? No, hai detto tutto. La presentazione l'hai fatta, perché siamo proprio presi, siamo sì, emozionati di sentire Max. Finalmente lo vedo qua davanti a me. Io l'ho visto qualche mese fa a Padova in diretta al teatro, però vederlo qua davanti a un centimetro è una cosa un po' differente, decisamente differente. Benvenuto a Max Manfredi. Ciao a tutti, ciao. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Sei una persona alla quale noi stimiamo molto e ci fa molto piacere veramente avere in studio questa sera dal vivo, in acustico poi. E ti sei portato un accompagnatore, un chitarrista, ce lo vuoi presentare? Mi sono portato, sì, questo autista. Autista chitarrista. Autista chitarrista, suonatore di vari strumenti a corde, Matteo Naum. Buonasera a tutti. Ciao Matteo, anche a te. Ne approfittiamo subito per salutare gli amici in comune. Matteo, cosa dici? Gli amici in comune, certo. Antonella e Davide, io so che una delle tue chitarre te l'ha fatta Davide. È costruita da Davide, sì, certo. E le salutiamo allora. Ciao Antonella. Ed è qui con me stasera. È qui con te. Max, allora siamo a te. Io vorrei partire da una frase, visto che ne parlavamo anche poc'anzi fuori diretta, è una frase che ti ha detto Roberto Vecchioni, e cioè è un capostipite, è uno che ha bazzicato col romanzo, con la poesia, col dialettale, con la canzone e senza. È un capace, uno che non posso nemmeno limitare con il termine di cantautore. Beh, è un po' un'esigenza questa qui di fare tante cose, un'esigenza ma anche una voglia. E poi ci sono cose che vengono bene, meglio, e insomma, sono cose che vengono peggio. Parole dette da un cantautore come Roberto Vecchioni a te. Ma sì, no, ma mi fa piacere, anche perché il termine cantautore di per sé vuol dire poco. Quindi focalizzare un po' è meglio. Ecco, perché Max non ama giustamente essere definito un cantautore, un artista delle parole, possiamo dire questo? Si può dire tante cose, sì. Anche cantautore non è di per sé, anzi come parola sarebbe bizzarra, sarebbe una parola simpatica. C'era proprio un famoso cantautore, che Francesco Guccini, sì, che diceva giustamente che sembrava un termine degli amici di Gioele, no? Se qualcuno si ricorda, erano delle figurine, certo, formate da animali mitologici, vero, misti, di non so, c'era il camaleopardo, queste cose, sì, qui. Tutte cose molto dignitose, in effetti, queste qua. E anche la parola è non è una brutta parola, no, di per sé. Diventa brutta nel momento in cui gli si vuol dare un significato. Un'etichetta, forse. Si lascia il significante, va benissimo. Allora, è brutto dirti che tu appartieni alla scuola genovese, seconda tranche della scuola genovese. Non è che sia brutto, è un po' improprio, perché non c'è, cioè bisogna vedere cosa si intende per scuola genovese. Se si intende scuola nel senso di ozio, sì. scuola è vuol dire ozio. Se invece si intende la bottega, il luogo dove ci si riunisce tutti insieme, come molti dicono della scuola, no, questo non è successo, cioè a me è successo con altre persone, ho conosciuto anche qualcuno della vecchia scuola genovese, ma non, non erano i tempi, non era l'epoca, insomma, io ero un bambino, quindi non, e per cui sì, se si dice tutti quelli che fanno canzoni a Genova possiamo metterli lì in una specie di ipotetica scuola genovese, boh, si può fare. Sì, t'hanno anche, t'hanno anche premiato. Niente per vieta. Questo. Sì, mi hanno, una volta mi hanno dato un. Ma era una cosa strana, perché c'ero io che ero premiato come capostipite, sì, della, di una nuova ipotetica scuola genovese. E poi c'era il mio amico Federico Sirianni che veniva premiato come miglior rappresentante della scuola stessa. E a Genova si dice Dagene de Nummi, no? Danne di nomi, vuol dire, wow, ognuno insomma, può dire quello che vuole, basta essere consci del fatto che non si tratta di formule no. Importanti, che sono tutte criticabili comunque. 20 anni di carriera, 5 dischi, di cui uno di cui parleremo con un progetto un po' particolare, ma sì. 20 anni di carriera, 5 album, dall'inizio. Beh, sì, sì, sì. Dal primo disco prodotto da Edoardo De Angelis. Sì, ci vuole il carbonio 14. Ecco, per misurare. Sono, il primo disco del 1990. Esattamente. E mi dice, io avevo letto che avevi già pronto un sacco di cose, però per motivi diversi non sei, ne eri mai riuscito ad incidere l'album. Hai aspettato un po' di tempo per trovare il sistema. Ma per... sì, ma insomma, e sono le solite cose. Sì, no, ma io poi sono anche un caso speciale, perché io non sapevo mica che esistesse il Club Tenco, per esempio. Okay. Andavo all'università, una mia amica mi disse: guarda, so che fai canzoni. O facevi, perché in realtà avevo smesso, so che facevi canzoni, mandane qualcuna a questo signore che poi ho avuto la fortuna di conoscere, Amilcare Rambaldi. Certo. E davvero lo dico di poche persone, ho avuto la fortuna di conoscerlo, il quale mi invitò appunto a questa rassegna Tenco. Fu molto bello perché incontrai più che gli italiani, so che avevo fraternizzato con un americano che sicuramente voi conoscete, almeno voi, ecco, Dave Van Ronk. Sì, certo. E con un russo, Bulat Akhuchava, che era praticamente il più grande poeta russo, però naturalmente si parla di nomi che qui in Italia non sono conosciuti. Però insomma sì, parlavo con questo, col manager di questo Bulat Akhuchava, e mi fece incidere delle cose per Radio Mosca, mi fece... E gli chiesi: ma come mai? Perché erano ancora tempi, diciamo, non sospetti. Dice: come mai volete dimostrare come marcia la piccola la piccola borghesia intellettuale italiana? No, è che va molto lo swing. Mi ha detto. Quindi ha tagliato la testa al toro. Sì, sì. Benissimo, adesso per cominciare a suonare, sì, direi, qualcosa, esatto. Sì. Di far sentire subito. Partiamo subito dal disco nuovo. Max, vuoi ancora darci una... Ma no, facciamo una doppia, come si diceva nelle scuole genovese di altro tipo, ai tempi, una doppia, cioè due canzoni insieme. La prima si chiama Libeccio ed è tratto, sono tutte e due tratti dal disco Luna Persa, che è il disco precedente. Il precedente. Esattamente. La prima si chiama Libeccio e dà modo a Matteo di far sentire che sa suonare la chitarra. E la seconda si chiama che sa guidare la macchina. Ah, no, quello è una cosa privata tra noi. E la cosa, quella dopo invece si chiama Rezzina, è dedicata un po' al clima greco, anche se poi la musica non è proprio quella, e ha questo vino, Rezzina, che è un vino greco resinoso, particolarmente profumato. Gitane, dammi gravidanze, danze di pavane, dammi almeno corsa di chitarre, monta di cavalli lungo le pianure, dammi un canto da fischiare, come fischia un capo quando è temporale, e un dolore lucidato a mano esploso dentro gli occhi senza la sicura. Canta per me, rabbia di canile, vento di fucile, gola di bauxite. Prendi a bordo questo mio ricordo diventato sorda, suon di dinamite. Canta un fato che non m'ha beccato, ninnolo di spari lungo il litorale. Fionda e fuga in salto delle streghe, il volo delle acciughe sulle vie del sale. Shisha, shisha, Libeccio. si danza fino all'alba. Shisha, shisha, li peggio. Anche da casa lo senti, oh città di correnti. Presto avrà fine l'embargo e ti sveglierai dal letargo dei rosari violenti. Canta per me, verdimo tiondosi, tomba di marosi, culla di fondale, sciallalla saudagi, solco di naufragi, lacca di vinile, cuoio di stivale. Tu que sigo di ratto penigo, sciuma di ciappelle, buie ballatoio, fuggi fuggi imbuto di carruggi, ronde di ciattelle, gronde con l'ingoio. Shusha, shusha, li peggio, pulisci sto stivale. Shusha, shusha, li peggio, sputo di luce e di sale. Rogolo, smeraldino, volto del santo catino, soffio di parenti sul candeliere. Città di correnti, presto avrà fine l'embargo e ti sveglierai dal letargo dei rosari violenti. Fermarti qui a mangiare, a bere e a dormire. Puoi parlarmi della neve se vuoi, che si ferma sui sentieri, i sentieri dei funghi, delle more e delle nostre spine. Vedi da qui gente affacciata a guardare il mare che vende collane e porta via la vita. Vedi da qui l'acetilene delle lampare e come sembra luce a volte quello che è fatica. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. A adesso puoi soffiarmi in faccia il fumo delle tue sigarette d'Oriente, rubate a chissà che plotone di fucilieri di sabbia. Puoi fermarti qui e cullare dolcemente, affannosamente, l'inutile parola d'ordine che ci sale alle labbra. Vedi da qui gente finita che beve rezzina, mentre di occhi sereni stanotte canto ed ho per te, se soltanto mi vieni vicina, quel che resta a me degli sbagli di un altro. Fermarti qui senza stare a capire, puoi fermarti qui a mangiare, a bere e a dormire, puoi fermarti qui a parlare, a fumare, a ridere e a venire, stanotte puoi fermarti qui e domani, domani puoi ripartire. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Cari ascoltatori, questo è live, assolutamente live. Sì, sì, assolutamente sì. Live, quindi splendida esecuzione di due pezzi, due canzoni da Luna Persa. Luna Persa, un album del 2009, un album importante per te, Max. Tanto ha vinto, sì. Ha vinto un sacco di premi, ha vinto il premio Tenco. Poi ho avuto la soddisfazione anche un po' i precedenti, sì. Ma di fare proprio io la regia insieme ai musicisti. Della staffa, ricordiamo, sì. I musicisti della staffa. I musicisti della staffa, che poi sono gli stessi adesso invece, certo. Di Dremong. De Dremong, esattamente. Sono più o meno gli stessi. Poi, come dico sempre, i musicisti, noi siamo come le pizze, i musicisti si possono aggiungere, si possono togliere. Quindi si va dalla marinara alla capricciosa a seconda delle disponibilità economiche dei committenti. Un album del 2009 che usciva dopo 8 anni dall'Intagliatore di Santi. Nell'Intagliatore dei Santi c'è un pezzo che tu ami particolarmente, siamo Cattedrali. Sì, mi piace. Ti piace, questo ti piace. Pezzo. È proprio dentro nella tua natura, il Cattedrale. Ma non è che sia nella mia natura, ma più che musicale, altro. Parlo di musicale. È un pezzo che avevo fatto tanti, tanti anni fa e non l'ho mai buttato via. È un pezzo che ha una sua magia. Poi ognuno lo interpreta come vuole, naturalmente. Ma sarà che questa immagine, comunque, no, della cattedrale è molto presente. Uno scritto a proposito di cattedrali, una canzone. Mi piace la parola. Logica, illogica, scatologica e scatologica. Uno ha scritto. Scatologica, mi auguro di no. E scatologica. E scatologica un pochino, sì. Perché sì, ecco, quello che mette insieme l'escatologia, cioè quello che ci si poteva aspettare negli anni 60 o 70, che ci fosse una rivoluzione, una palingenesi, quasi un rinnovamento, quasi un apocalisse, diciamo, certo. Che poi naturalmente non c'è stata, ma accomuna al tempo del Medioevo, quando ci si aspettava appunto la fine del mondo. Sì, l'apocalisse. Sì, che era insieme la fine del mondo e quindi la distruzione del sistema ingiusto e anche la speranza invece della città, in quei tempi della città di Dio, poi questa è una radio, insomma, esatto. Diocesana, quindi giustamente, esattamente, posso anche dire questa cosa. Certamente. Ok. Cosa facciamo adesso? Facciamo cattedrali, visto che sto buttato. Devo portare i saluti a Max. Sì, dice Gino l'ascoltautore. Ah sì, esattamente. Ciao Gino, conosciamo sì, su Facebook. Esatto, lui dice: è un vero piacere per me ascoltare l'amico Max da voi. Un artista che stimo molto per la sua poetica in musica, ma certo la sua validità non la scopro io. Un caro abbraccio a voi. No, però tutto fa. Ciao Gino. Come sempre qua sconvolgiamo tutte le scalette. Lo so, sono sempre io che sconvolgo le tue scalette. No, Max, siamo in famiglia, siamo fra amici. Poi Matteo è bravissimo. Adesso ha preso la chitarra elettrica. Matteo, una cosa molto, molto interessante. Matteo, zitto, zitto, cambia strumento. Esattamente, cambia strumento. Le belinate, si può dire. Eh? Allora, cosa facciamo adesso? Cosa avete deciso? Cattedrale. Facciamo cattedrale e parliamo del disco nuovo. Allora, ok. Il tuo amico fa il finto francese e non vuole parlarti italiano, ma tant mieux se sta zitto e ti tocca i capelli color zafferano. Ti racconta che Dio gli ha ordinato: costruiscimi una cattedrale. Lo ascolti senza buone ragioni, non ti chiedi nemmeno dove vuole arrivare. Sono meglio i capelli a caschetto, perché il mille dovrà pur finire con il vin champenois messo in ghiaccio per brindare a un tuo dolce dies irae. Porti calze listate di nero su gambe di vedova ballerina, e se sogni, sogni i cani di pietra che ti hanno in custodia da quando eri bambina. Te lo porti in un posto di fumo, dove il liscio si allaccia alla vita, le comparse hanno l'aria distratta come angeli in libera uscita. Alla settima birra si scalda, non la smette più di straparlare. Tu gli ridi negli occhi e gli dici: una notte non basta alla tua cattedrale. A sentire, io disegno i pinnacoli coi pennini rubati alle ali degli aerei di carta impigliati nell'orecchio di pietra dei cani. Poi son convenzionato con tutto l'inferno, frati, massoni e cazzuole. Faccio prima delle bici dell'alba con la dinamo rossa che scavalcano il sole. Thank you. sono guglie del tuo medioevo, e voi due su vertigine quieta, come l'Eden di un basso rilievo. E la notte risuona come corie navate di cattedrali. E anche i diavoli sono spariti dietro i loro cappelli di vecchi giornali. Canzone di Max Manfredi, mm-hmm. questa era Cattedrali. Forse non so se tu lo sai, Max, ma con questa canzone hai fatto innamorare due però. Beh, no, uno. Si chiama Rocco Rosignoli, che è un cantante che è passato è passato di questa emittente. Ma sei innamorato di una, però. Uno dei brani che mi ha fatto innamorare dell'arte di Max, sì, giusto, uno. Sì, sempre sì. Sempre da è difficile che si innamori proprio di te personalmente, ora non parlo di Rocco in questo momento. Un saluto a lui, a Matteo e a voi di Blu Radio Veneto. Ciao Rocco. Questo è un arrangiamento bellissimo che avete fatto stasera, cioè la chitarra elettrica. Ti è piaciuto? Molto bello. Non c'è il violino, ma va bene lo stesso, c'è la chitarra elettrica. Sì, il bello e il brutto dei dischi è che poi sono fatti così, in una maniera che poi può essere ovviamente rifatta in una maniera opinabile. Poi noi non siamo quelli che facciamo lo stesso spettacolo con i suoni del disco, anche perché non avremmo la possibilità, a meno di non usare proprio delle basi. Esattamente, che non è la nostra idea delle basi. Se si fa dal vivo, si fa dal vivo. Esattamente. E l'idea di... L'arrangiamento con questa chitarra elettrica molto interessante, qualche volta si sentiva quasi un rumore, quasi fisico, un rumore fisico. L'hai fatto, praticamente una cosa particolare. Ma quella è la pancia che è la pancia, per via del Valdobbiade, che abbiamo bevuto ieri. Sei un po' rumorista, hai fatto un po' di rumore, rumorista. Sì, ma ci sono dei suoni che sono... Parla vicino al microfono, Matteo. Sì, grazie. Eccomi. Ci sono dei suoni che abbiamo creato con Max, che sono così un pochino più evocativi, un pochino cioè più non li abbiamo proprio creati, c'erano già, però insomma li avete estrapolati. Beh, sì. Inventati. Ecco, inventati, dai. E sì, che hanno un senso più narrativo, forse, che non strettamente musicale, oppure musicale in quel senso. Che hanno un senso, un pezzo come Cattedrali, assolutamente. Questo per portare l'acqua al mulino della frase che dico spesso, che la canzone è fatta di una parte musicale, che è il testo, e di una parte poetica, che è la musica. La musica. In effetti la musica ha un potere evocativo molto forte, senza essere illustrativo. Però è evocativo, c'è un confine forse labile, no? fra la musica illustrativa, che comunque però è musica, quindi anche tipo, non so, le quattro stagioni di Vivaldi sono in parte illustrative, ma in realtà sono molto evocative. Certo, certamente. E la musica ha proprio questa capacità che si trova specialmente nei film o nel teatro, cioè la musica di scena. Ecco, per me è una canzone, una specie di film, per cui ci sono immagini, c'è la musica. Io volevo soffermarmi ancora, se mi consentite, Max, con il disco precedente, cioè quello, l'ultimo, tra virgolette, insomma, che hai pubblicato, cioè Luna Persa, perché hai voluto mettere una canzone che mi è piaciuta tantissimo. Ci sei fatto, come dire, una specie di regalo, una chicca di una canzone che avevi scritto nel 94 nell'album Max, se non sbaglio, e si chiama La Fiera della Maddalena. Questa canzone è cantata assieme a Fabrizio De André. Sì. Come ti è venuta questa idea di cantare una canzone con uno dei mostri sacri della musica italiana? È venuta a lui. È venuta a lui? Anzi, quando me lo disse un amico, Vanni Pierini, un amico che a quei tempi si occupava del Festival di Musicultura, del Premio Città di Recanati, gliela fece sentire e Fabrizio, che io non conoscevo di persona, rimase impressionato e quindi fu lui che ebbe l'idea di cantare una canzone, cioè ne sentì alcune e fu sua l'idea di cantare una canzone insieme. in un disco. Non il mio produttore non ne sapeva nulla, gliel'ho dovuta dire io. Sì, sì, chiaramente. Il buon Edoardo. Certo, Edoardo De Angelis, chiaramente. Sì, sì, sì. E l'abbiamo già ripetuto l'altra volta quando ci siamo visti a teatro. Io mi sono studiato e De Andrea ha fatto solo 5 duetti. Tra i 5 ci sei te. Solo 5? Solo 5, non sembrano di più. No, secondo me ce ne ha fatti solo 5. Quindi... Vabbè, comunque, sì, vabbè. Non è che facesse proprio duetti. Esattamente. Tanto più che poi in alcuni casi probabilmente gliel'ha proposto anche la casa discografica, certo, certo. E lui soppesava perché era molto attento a queste cose. Nel mio caso l'ha proprio proposto lui. Aperto, quindi non... ha soppesato molto in senso positivo, chiaramente. Sì, sì, sì. È stata una grande soddisfazione comunque per te, insomma, cantare sì, una canzone con lui. È stata una bella soddisfazione, anche perché è stata una delle poche volte che ho avuto un contatto, anzi, un contatto effettivamente anche... importante e di qualche giorno con un esponente della scuola genovese, possiamo dire stavolta. La scuola genovese, certamente. Che scuola, sì, esattamente. Insomma, perlomeno. Poi sì, altri li ho conosciuti, ma un pochino più di sfuggita. Invece lì proprio abbiamo lavorato insieme, siamo stati, insomma... Che bello. Per giorni in uno studio insieme con gli amici di Roma... Chiaramente Sagnini, perché, Alessandro Ghis. Certo, tu però non sei legato alla scuola, come giustamente hai detto prima. Vari, svaghi, abbracci tanti mondi musicali. Eh sì, ma è normale, perché noi possiamo sentire qualsiasi cosa adesso e quindi possiamo avere tantissime emozioni e tantissimi affetti musicali diversi. Afroamericano che stava nel delta del Mississippi probabilmente più che blues non poteva difficile fare. Che facesse chiaro. Però già per esempio nel bebop ascoltavano molto la musica classica, gli impressionisti, insomma si ascolta sempre, oppure ci sono fenomeni misti come Gershwin, come lo stesso Stravinsky, se vogliamo andare nella musica contemporanea classica, con Ebony Concert che comunque orecchiava, no? Anche a quello che succedeva, che era una cosa molto interessante, quando le musiche, fino ad arrivare in tempi più recenti ai Beatles e Luciano Berio, sì. Quando, cioè, la musica è bella anche perché che permette questi saluti e queste unioni di tipi diversi, di generi diversi, di intenzioni diversi, e anche proprio senza differenza fra ciò che è in alto e ciò che è in basso. L'unica differenza, come dicono tutti, quelli che però dicono giusto, è che c'è quella buona e quella cattiva, c'è quella brutta e quella bella. Effettivamente così, assolutamente. Andiamo a scoprire questo orso tibetano. Esatto, sì, questo nuovo progetto di Max Tremong. Un progetto un po' particolare, nel senso innovativo, possiamo dire, per l'Italia. Si comincia a fare ste robe in sì, Italia. Sì, sì. No, sì, cioè è innovativo fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Si comincia a sdoganarsi, ad allontanarsi dalle case discografiche vere e proprie. Sì, ma è proprio una questione, secondo me, tecnica, anche di comodità. Si ha più sotto controllo la propria materia, si possono scegliere i tempi di uscita, basta rispettare naturalmente questa specie di contratto. Il contratto fatto con... Per cui le persone vanno sul sito MusicRaiser, guardano la proposta com'è illustrata e poi... se vogliono fanno una donazione. Esattamente, una donazione che è in realtà una specie di prevendita. Esattamente, cioè... che va da un minimo a una cifra consistente, dai 5 ai 5.000 euro più o meno. Questo però questo a seconda è lo di spazio. Sì, a seconda di quello che uno vuole, dona e riceve. Quindi tipo, non so, se uno 35 euro per esempio il prezzo del vinile. Naturalmente sono, poi probabilmente il vinile lo venderemo ai concerti a un prezzo minore. Questo qui c'è anche implicita una piccola donazione, insomma un attestato di stima, ecco. È interessante proprio per quello, perché si vede, facendo ovviamente, informando più persone possibile, naturalmente non è, molti non lo sanno ancora, cioè, però sta prendendo piede, oltre a sì. te qualche altro musicista ha avuto questa idea, continua a svilupparsi? Molti. Beh, basta andare sul sito MusicRaiser, che non è l'unico, ma è il sito più importante da questo punto di vista, e si vedono tutte le proposte che ci sono, sono tantissime. E vanno da quelli che chiedono 1.000 euro per fare pagare la sala d'incisione, a quelli che chiedono 20.000, 30.000 euro per fare cose più grosse. Noi ne chiediamo 9.000, che ci servono più o meno a pagare le spese di stampa degli oggetti, dei dischi, della maglietta, ci serve una maglietta, e poi sì, pagarci i viaggi, dei concerti che facciamo per, appunto, per propagandarlo e dare qualcosa anche ai musicisti, che certo, non assolutamente, vivono di aria. Ma, e la cosa bella, gli ascoltatori non lo sanno, io lo so perché me l'ha detto tempo fa Max, la cosa bella è che l'idea Max l'ha avuta, l'ha data Claudio Rocchi. Claudio Rocchi non lo conosceva Max, però l'ha conosciuto così, su Facebook mi pare. Ci siamo conosciuti su Facebook, e una volta a Roma ero in macchina con lui e lui parlava di questo progetto che aveva. Di questo progetto e della convenienza, anche proprio economica, finanziaria, di questo progetto. Se funziona, ovviamente. Cioè, perché bisogna ritornare indietro i soldi se non funziona. E quindi, sì, se non funziona si danno indietro i soldi. Se funziona però ci si emancipa in qualche modo da tante piccole situazioni che possono essere buone, possono servire ad agevolare le cose tipo distribuzione nei negozi e cose del genere, però possono anche fermarle, quindi bisogna stare un po' attenti, ecco, lo dico a tutti quelli che vogliono fare dischi, che sono ormai centinaia e migliaia in Italia, quindi... È vero, perché tanto semplice, mica tanto semplice, però sembra semplice. Ma sai, in realtà la possibilità di produrre un disco adesso è molto semplice, insomma ce l'hanno quasi tutti. Non è come quando si doveva andare per forza nella sala d'incisione, magari della RCA, perché esatto, non ce n'erano altre, poi sono cominciate anche altre sale d'incisione e poi adesso uno se li fa anche a casa i sì, dischi. Chiaro. Cominciamo allora ad esplorare questo nuovo disco, questo sì. Tremon. Noi per esempio abbiamo uno studio in cui lavoriamo con un amico di una entità che si chiama Primigenia, che è un'entità che produce dischi. Lui si chiama Bruno Cimenti, insieme a Nives Agostini sono anche i fonici del disco stesso, quindi insomma è una cosa abbastanza fatta in casa. Però ci saranno tantissimi musicisti, tantissimi strumenti, un po' come in Luna Persa, che già era un colosso da questo punto di vista. Ma questo semplicemente perché ci viene voglia, ma qui ci starebbe bene un quartetto d'archi, per esempio. E poi lo chiediamo agli amici, alle amiche, e spesso molti infatti sono ospiti graditi e gratuiti, altri invece ricevono qualche un piccolo guidardone. Bene. Va bene, cosa ci fai ascoltare Max adesso? A questo punto potremmo passare a un pezzo di Dremong. Sì, esattamente. Sì. E poi ce lo spiego un po'. Adesso Matteo ha cambiato la chitarra. Che strumento è quello, Matteo? Lo strumento misterioso che abbiamo stabilito essere simile al mandol del Nord Africa, che tutti conoscono, no? Che abbiamo... tutti conoscono, che tutti hanno in casa. Sì, sì. Anzi... sì, ma questo è un mandol. Naturalmente. Mi ricordo un mio amico, scusami, che andò tipo in Australia, non so che cosa, e mangiò l'iguana. E tutti gli chiesero: ma com'è questa iguana? E lui: ma sembra un po' un serpente. È una cosa di tutti i giorni. Sembra un po' un mondolo. Esatto. Comunque è un cordofono a quattro corde doppie, ecco, insomma. Assomiglia un po' a una mandola, volendo. Sì. E noi lo usiamo per questo pezzo che si chiama Sangue di Drago ed è un po' ispirato, per non dire scoppiazzato, da certa musica greca. amore amaro di tante coltellate che ieri mi han girato, nessuna mi ferì, però sereno per colpa del tuo seno e del tuo sguardo nero non dormo notte dì. E se ho schivate tutte le coltellate, perché queste ferite e il sangue nella mano, sangue di drago, è come un talismano, danza di un ubriaco, lo porterò con me. Sangue di drago è il rosso del cinabro, è diventato un guado, mi porterà da te, mi porterà da te. Lai lai lai la la la la la. Bellissimo, questo è un inedito, inedito per noi, cioè fa parte del nuovo del disco. Del nuovo disco. Del nuovo progetto. E che cosa vuol dire Dremong? Chi è il Dremong? Il Dremong è il nome locale di un orso del Tibet, che è un orso abbastanza normale, tranquillo, però nell'antichità ci sono delle testimonianze di grande timore nei confronti di questa specie di totem, insomma, e quindi dicono tipo liberaci, dicono a una divinità, liberaci dal serpente, dal fiscalista e dal Dremong, per esempio, no? In realtà il povero Dremong viene perseguitato da secoli, se non da millenni, perché la sua bile serve alla medicina cinese. Perfetto. Per fare unguenti o farmaci. E allora, insomma, un po' tirato per il pelo, c'è questa idea che in fondo anche la canzone spesso proviene dalla bile e diventa ornamento o medicina. Certo, assolutamente. E poi l'orso è presente un po' in tutta la storia dell'umanità, con questa doppia funzione di essere da un lato un consolatorio, il peluche, quello che si porta in letto magari da bambini, e anche invece una figura un po' inquietante. È un misto, cioè non è del tutto, diciamo, umanizzato come il cane, non è invece molto poco presente come la volpe e il lupo, che sono presenti naturalmente nelle favole, nelle leggende, ma è più difficile avvicinarli. Gli orsi, su Facebook proprio ho visto un orso seduto a un tavolo come se aspettasse la birra media proprio. quindi sono abbastanza addomesticabili. C'è un altro incredibile video di un domatore, diciamo così, ma domatore è dire troppo, nel senso che c'è questo orso che fa di tutto e poi negli intervalli piglia il suo, diciamo, maestro e lo prende proprio sotto braccio, gli mette la zampa sulla spalla e lo guarda, come dire, beh, ma è stato identificato come l'abominevole uomo delle nevi. Questa è una cosa interessante, perché siccome il Dremong abita nelle solitudini dell'Himalaya, certo, e siccome in quei monti è sorta la leggenda, se è una leggenda, o comunque varie testimonianze dell'esistenza di questo uomo delle nevi, molti hanno fatto 2 più 2, hanno detto ma no, è il Dremong che quando si rizza sulle zampe sembra un po' un uomo. Poi pare che l'uomo delle nevi e forse anche l'orso puzzino moltissimo, non lo so. In ogni caso sì, è una cosa, sia il Dalai Lama che il famoso esploratore Messner hanno pensato che in realtà appunto l'abominevole uomo, poi non era abominevole, è stata una traduzione strana, comunque quest'uomo delle nevi fosse il Dremong, e siccome dico Mestre ha avvistato il Dremong e ha detto ecco lì è l'abominevole uomo delle nevi e possiamo pensare che l'orso abbia fatto lo stesso ragionamento vedendo sì, può darsi, assolutamente proprio. Ma così, come ti è venuta questa idea di parlare di questo orso nel tuo nuovo disco? Ma me l'ha nominato in realtà la persona con cui vivo, uh-huh. Mia moglie. Ti è incuriosito, insomma. E mi è piaciuta perché lei va spesso in Tibet, uh-huh. E da quelle parti lì mi è piaciuto il suono del nome, anche perché mi faceva venire un po' in mente un nome chissà perché della musica progressive, cioè poteva essere Dremong, poteva essere il nome di un gruppo progressive. Tu che... E allora siccome stavo ascoltando quel tipo di musica lì un po' con... Anche hai partecipato a qualcosa di musica progressive? Ho fatto la voce, esatto, narrante in un disco del Tempio delle Clessidre di un gruppo genovese di cui fa parte, se non capitanato da Elisa Montaldo, la quale è anche colei che suona le tastiere nel disco Dremong, quindi c'è un collegamento assolutamente, sì. Decisamente. Sì, è interessante, un discorso interessante che stai facendo con questo disco, perché è un disco vario e nasce da un momento, dalla inquietudine, nasce da quello, perché questo è un orso inquieto. Infatti è un orso inquieto, noi anche infatti l'abbiamo presentato a un festival che si chiama Festival dell'Inquietudine. È vero, proprio questo così. Progetto, come tutti dicono, qualsiasi cosa è diventato un progetto, comunque sì, è un progetto anche questo. L'abbiamo presentato proprio lì. È un progetto sicuramente inquieto, sia perché le canzoni sfiorano, toccano, abusano, se vogliamo, di tanti tipi diversi di musica. Ecco, io per esempio non ho mai capito come si possa parlare di musica, diciamo, cantautorale, laddove uno ha un repertorio immenso a cui attingere, ma non esiste la musica da cantautore. Quando mai? Cos'è in comune la musica di Bob Dylan con quella di Gigi D'Alessio o con quella di Jacques Brel? Hanno poco, molto poco in comune. A volte si attinge, sì, dalle stesse fonti, ma sono fonti infinite e sono assolutamente ricche, no? Ad esempio, la canzone di prima è effettivamente un po' scopiazzata, se vogliamo, da un clima greco, ma può essere scopiazzata. Hai preso ispirazione, possiamo dire questo. Sì, in realtà è successa una cosa strana. Mi sono svegliato con una splendida musica in testa e l'ho, diciamo, e poi però ho sentito che esisteva. Allora hai dovuto leggermente modificarla. Allora, non leggermente, l'ho proprio modificata tanto. Ho capito. Benissimo. Sei un autore prolifico tu, Max, scrivi molto. Raccolgo molto e custodisco molto, uh-huh. Butto via poco e quindi mi trovo sempre con tante canzoni, diciamo, pronte per essere elaborate. Hai detto una cosa giusta. Del maiale, come del cantautore, come del maiale. Esattamente, questo hai detto. A te anche. Anche perché si bruciano già da sole le cose che non hanno senso, no? Non ti vengono in mente, non le scrivi nemmeno. Giusto. Quando scrivi una cosa, poi più o meno va bene. Ecco. E infatti in questo disco ci sono tante canzoni, anche ci sono quelle nuove, ma anche quelle vecchissime, che come hai ripreso, negli altri dischi del resto. Che hai ripreso, hai rifatto, hai riproposto. Sì. In che versioni questa stavolta? Non attualizzanti, no. Anzi, perché poi io in realtà anche quando faccio uso, diciamo, di tastiere, diciamo così, vantage, quindi quei suoni che si usavano negli anni 70, quando venivano fuori le prime tastiere nella musica rock, quindi synth, chiaramente pop, no? Quindi c'era il mini Moog, certo. c'erano i vari tipi di piani elettrici, c'era il Mellotron, tutte cose che adesso sono disponibili anche con buoni campionamenti abbastanza fedeli, ecco. Ma sono per me il suono, diciamo, elettronico di questi strumenti qui è un po' come usare uno strumento della musica antica. Un po' come usare, non so, una viola da gamba o una lira o un... sono timbri particolari e piuttosto duttili anche. Fra le tante cose che tu hai fatto, hai avuto un approccio con la musica antica? Sì, sì, sì, specialmente con quella medievale, ma anche, anche con quella, insomma, fino alla musica barocca. Con la musica medievale, anche proprio sul piano dei concerti, come cantante, mentre invece con le altre più su un piano di didattico e di concerto insieme. Con un gruppo di Milano, l'Accademia Viscontea, abbiamo fatto anni e anni di lavoro nelle scuole, il che mi ha anche reso pendolare, e questo ha dato origine ad alcune mie canzoni che si svolgono in questo set che sono le stazioni tra Milano e Genova. È più che altro quelle, sì. facciamo un'altra doppia, cosa dici, Max? O sì, vuoi fare una singola? Facciamo un'altra doppia. Beh, possiamo fare Il treno per Cuckoo Walk, proprio perché parla di... Sempre tratto da Luna Persa. Sempre tratto da Luna Persa, e poi invece facciamo una canzone che si chiama Notte. Siccome Matteo ha qualche problema, succede anche a me qualche volta, qualche problema di insonnia qualche volta. E allora questa è una canzone dedicata, insomma, una canzone tisana, una canzone ninna nanna. e nessuno potrà quindi mai dire: ah, mi hai fatto addormentare, volevo. Quindi cominciamo col treno per Cuckoo Walk e poi Notte. Questo è lo sfoglio delle pagine in diretta. Beh, mentre Matteo si prepara, ricordo che questo è sempre Blu Radio Veneto, con la voce di Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con Max Manfredi e con il suo chitarrista accompagnatore autista, insomma, Matteo. Anche autistico qualche volta. Cartello sballato in stazione a Pavia. Sarà stato Sanremo, Tortona o Voghera, e diventa un miraggio della fantasia. Cuckoo Walk, viene in mente una riserva indiana, pistoleri pentiti, mezzo sangue. Sulla strada ferrata tra Ohio e Montana, chissà se c'è un po' d'acqua di fuoco per noi. Cuckoo Walk, dove il popolo dei pendolari lascia scalpi e scalpori di apace, si i pupazzi di neve delle elementari, Calumè e Tomahawk, che non usano più, hanno sogni cavalli di larga criniera e ricordi bruciati dagli elettroshock. Tanto ogni città è città di frontiera, ogni posto va bene purché sia Cuckoo Walk. Sopra il treno per Cuckoo Walk che ci salgo a fare, io che sì, ho desideri ma nemmeno più una nostalgia, e i mormoni e i pionieri che sento cantare non mi fanno pensare neanche più a casa mia, e gli iPod ricamano la vita intera con le danze tribali e i fantasmi del rock fanno presto al mattino, tiran tardi la sera e si scambian ricette, visi pallidi e squo hanno nonni sciamani e orsi di stoppa, praterie con aziende, vinicole, doc dell'Alzheimer galoppa, riportandoli a casa, tutti qui a Cucuo. Kukuok non è il nome di una riserva indiana, son sette lettere a caso su un vecchio display. Ci si sposta sei giorni in una settimana, si sta zitti o si parla di fucili e rodei. Mocassini o stivali non fa differenza, se si sverna al saloon o sotto un caldo tipi, con l'aereo, col treno o con la diligenza. Posto va bene, purché non sia qui. Sono sveglie come dentro un ostello di vacanza, e parlano esperanto dentro il dormitorio della tua stanza. Notte, tu sveglio e le cose che dormono ancora si muovono nel loro sonno leggero, come degli orsi in letargo, ma già quasi a primavera. L'alba nel cielo, notte, notte in bianco, notte al dente, notte che mi stai quasi per finire. Notte da letto a castello, notte ora basta parlare, fammi dormire. Notte che il porto è vestito da marinaretto, notte che tutte le navi alla ribalta, notte di nozze Venezia de Plean ammollo nelle piazze, notte acqua alta. Notte, notte in bianco, notte al dente, notte che mi stai quasi per sfinire. Notte da letto a castello, notte ora basta parlare, fammi dormire. Thank you. due meravigliosi arrangiamenti. Il primo assolutamente on the border, al confine, proprio vicino al confine, molto è un po' western Mexican, possiamo. E secondo, molto spaziale in alcuni momenti, caro Matteo, hai spaziato in tutti i sensi, hai giocato per modo di dire, hai colorato il pezzo di Max in una certa maniera. Sì, ma sono quasi lisergico in alcuni momenti. Certo, e infatti è interessante proprio utilizzare dei timbri che magari appartenevano a un tipo di musica, quella che appunto si chiamava psichedelica. Esattamente. No? E metterli invece in una narrazione che è più lirica ed è più simile, casomai, ad altre canzoni d'autore, non lo so. Beh, in questo senso c'è anche questo modello misto che è Leonard Cohen, certo, che mi è sempre piaciuto molto. Questa canzone direi che riecheggia un pochino certe tinte. Sì. Certi passaggi. Il valzer e poi un orecchio alla musica yiddish, comunque, alla musica klezmer, no? Certo. Che è importante, anche quella la sentivamo. Io la sentivo quando ancora non c'era la... Quando dovevi andare sulle onde medie e andare oltre col cursore della radio, no? Che finiva. Anzi, a questo livello, a questo proposito, potremmo fare una canzone che si chiama Finisterre, proprio, certo, e che è molto antica mia, e che è stata proprio, diciamo, ispirata da queste musiche che si sentivano e non si sentivano quando le stazioni radio non erano molte e bisognava andarsene un po' a cercare, insomma. E dobbiamo sottolineare anche lo strumento che sta usando Max stasera, uno strumento costruito da un liutaio. Costruito dal liutaio Fabio Zontini, dall'amico Fabio Zontini. Ah, un strumento meraviglioso. È molto bello anche da vedersi e ha questa particolarità tecnica che è costruito in legno e cartapesta. Ecco, vedi. Anche, sì. Max, ti porto i saluti dalla Carnia, Bruno e Nives. Ecco, Bruno e Nives, che sono appunto i coproduttori insieme a noi di questo disco, Dremong. Ciao. Io ne approfitto, visto che parlavi di Dremong, anche di salutare la Stefania Schintu della Top One Communication. Ciao Stefania, che ci ha dato questo tuo contatto, ci ha permesso di averti qui in studio, e la voglio ringraziare veramente con affetto, con un abbraccio. E la salutiamo anche noi. Ciao Stefania e grazie. Prego. I pellegrini tornano agli altari, riparano i peccati delle guerre. La radio in sintonia su Finisterre traghetta voci di temporali. La grandine è la voce di cantanti spagnole e di cantanti tunisini, che si mischiano insieme come i vini, quasi come i respiri degli amanti. Ma ben oltre i bollettini ai naviganti, oltre gli scali degli ultimi porti, con le ferite chiuse in passaporti, i miei soldati vengono giù stanchi, perché ogni passaporto è una ferita ed è servito per parare un colpo che era vibrato al cuore oppure al volto e ha sfregiato la foto della vita. Parte la nave e piglia a fucilare tutte quante le onde disertore. Bendate stanno in piedi lì a cantare, ai tutti in fila si canta e poi si muore. E forse sulla rice trasmittente senti le tre Marie spettacolare, chiuse dentro una teca di fondale dove nemmeno l'angelo le sente. Ma tu forse starei un attimo a ascoltare, adesso che il pericolo è passato, che loro non lo sanno, nulla è cambiato, dentro al santuario nulla può cambiare, là dove molti pregano gitano e a un coltello di stella sei devoto, ora controllerai le bombe a mano, luce. uccide come squali, come ex voto. Occhi in agguato dietro cavalli di Frisia, molti reduci ti fanno la corte, ne vengono giù da Costa da Morte, amari quasi come l'Artemisia, han conosciuto tutte le sirene, per ogni allarme, per ogni silenzio, stanno seduti e bevono l'assenzio che dà fuoco alla miccia delle vene. Lui ti guarda ed è appunto uno dei tanti lì con gli occhi pesti. Lui di notte fa pugni coi suoi pianti e di giorno lo mettono agli arresti. Ma a Finisterre ci sono folletti che fan danzare fino alla mattina. Adesso tu gli danzi più vicina, poi so che ci si cade addosso stretti. Se il cursore del mondo gira a vuoto, la radio annega, senti come beve, canta le tue canzoni in maremoto, cantale finché c'è chi le riceve. Cervo di colori, di suoni, di momenti. Sì, qui c'è molto della musica anche balcanica, possiamo dire. Sì, balcanica, sefardita, non so, sì. Arabo andalusa, insomma. Klezmer, anche perché poi anche klezmer, il bello, sì, della musica klezmer è che ha tantissimi, pur essendo mitteleuropea, mm-hmm, o di area slava, ha tantissimi ancora ricordi invece del orientale, sì, del Mediterraneo, mm-hmm, del Maghreb, del Maghreb, vogliamo chiamarlo, sì, insomma, possiamo chiamarlo così, chiaramente. E questa è una cosa affascinante che si trova però anche nella musica medievale moltissimo. Sì. Anche il cantato popolare, canti in modo popolare, assolutamente. Sì, io penso una cosa, che non tutte le canzoni vanno cantate allo stesso modo. La voce si colora. Mm. È una cosa che in genere i cantanti non fanno, o perché devono essere troppo attenti all'impostazione, nel caso del cantante di musica lirica, per esempio, dell'opera, oppure perché non sono capaci, oppure, ecco, perché scelgono di non farlo perché gli va bene una voce, che ce n'hanno una, gli va bene quella. Però la voce può essere colorata, no? Certo. E anche è un discorso che vale anche per gli attori. Indubbiamente così. Cosa ascolta Max Manfredi quando ha un po' di tempo libero, o meglio quando lo componi? Ma io quando ascolto qualcosa di solito lo ascolto o mi danno o mi imprestano dei dischi, uh-huh, cose degli amici da sentire o persone anche sconosciute, o se no vado su YouTube e pesca. No, io sono abbastanza facile per quanto riguarda il suono, mi basta più o meno capire di cosa si tratta, non ho bisogno di avere... Ma c'hai dei tuoi preferiti? Ma vado un po' a periodi, ad esempio ultimamente mi sono messo a sentire proprio delle cose di musica progressive. Quali? Oppure di musica comunque coeva, no? di quei tempi lì. Ma non so, una curiosità, mi è capitato ad esempio di sentire Captain Beefheart. E ho capito da chi ha copiato Tom Waits a partire da un certo punto, del grandissimo, bravissimo Tom Waits, ma appunto, insomma... Possiamo dire ci sono dei ritmi che proprio sembrano lui, oppure mi sono sentito di nuovo alcune cose, non so, After the Gold Rush di Neil Young, poi mi sono sentito i Gentle Giant, mi sono sentito un po' di tutto. Mi sono anche andato a sentire le prime cose, prime e seconde cose di Franco Battiato, quelle sperimentali, Fire Plus Pollution, proprio per sentire come usava lui, stava credo con, adesso non mi ricordo chi fosse, forse Cacciapaglia. Sì, Cacciapaglia, Cacciapaglia, sì. E quindi come usavano il Moog? Io a quei tempi c'erano dei suoni, ci sono dei suoni che sono molto, molto belli. Ricordo che molti anni fa, qui in teatro vicino al Pio X, che tutti conosciamo, Franco Battiato si presentò, aveva un organetto piccolino, rosso, era colore rosso, si era seduto alla tibetana e ha fatto un'ora e mezza di organetto. Beh, perché c'è un album suo famoso, bella menata, comunque ha presentato Messier le Gladiateur. Sì, sì, all'epoca. No, ma perché sì, lui giocava un po' su queste cose qui che orecchiavano molto alla musica contemporanea, sì, diciamo così, classica. Poi lui, sai, lui ha vinto il premio Stockhausen, sì, lui era stato a scuola a Darmstadt, certo, e tutto, quindi dopo, sì, sì. Sì, ma a me interessava proprio sentire invece quel tipo di suoni di Moog, come anche in altri. Poi, quindi mi è capitato di sentire anche, per esempio, come si chiamano, Uffa, Amnesia, dimmi. Alzheimer, dai, Aqualung, in Getro Tal. Tutta roba interessantissima. Che appunto non senti, poi spesso sento invece musica tradizionale, come appunto fado portoghese, certo, tibetico greco, queste cose. E Dremong ha assorbito queste cose, secondo te? Dremong sicuramente sì. Poi invece, per la canzone che dedicheremo al Dremong, ho sentito un po' i cori tibetani e abbiamo deciso di fare dei cori sardi, che sono simili. E abbiamo deciso, siccome il Fabrizio Ugas è sardo, certo, di origine, è capace a cantare come in questo modo, così, no? E quindi penso che faremo questa cosa qui. Poi è chiaro che ci sono dei tipi di musica che sono talmente vasti e diversi da quelli a cui siamo abituati, che si possono solo orecchiare. Studiare è ovviamente difficilissimo, come per esempio tutta la musica balinese o le orchestre di gamelan, queste cose qui, no? Si può rubacchiare magari una cosa o uno strumento magari. Ma Dremong vuol anche dire allontanarsi da certi schemi. Tu non hai degli schemi, però forse Dremong no. Non ci sono. Almeno per quanto riguarda la canzone, come dico, non credo che ci sia uno schema. Un percorso che tu hai seguito. Credo che siano preconcetti. Io mi ricordo una volta, proprio al rassegna Tenco, che c'era non so quale giornalista che... Io non cantavo, stavo lì e avevo ascoltato alcune cose, e c'era questo giornalista, che non mi ricordo chi fosse, di Roma, che mi diceva: ma Max, che ne pensi di sta roba? Così. E poi dice: ma a me sembra roba vecchia, tutta voce chitarra. Ma voce chitarra? Dipende dalla voce, dipende dalla chitarra, cioè ci sono, non è tutto uguale. E quindi, pure quelli che dicono: ma che genere di musica fai? E io già. Un po' mi arrabbio, un po' non capisco la domanda. Ma perché è più facile fare una domanda di questo genere? Poi, che genere di musica no, fai? E poi insistono: ma genere cantautorale? È lì proprio, lui, dico, ma cos'è il genere cantautorale? Sì, probabilmente lo si può capire in contrasto con altri tipi di musica, non lo so. Ci sono quelli che dicono, sbagliando, nella canzone cosiddetta d'autore si dà più importanza al testo che alla musica. Assolutamente no, però sicuramente anche il testo ha una sua importanza, certo. Però se noi guardiamo le cose peggiori della cosiddetta musica pop, non le cose migliori, ma le cose peggiori, sono brutte le parole ed è brutta la musica. Sono fatte bene, ma non sono belle, no? Certo. Quindi non è che abbiano. Sì, ci sono alcuni cantautori che per vari motivi hanno fatto delle canzoni che hanno una musica magari più semplice, più elementare, però anche lì bisogna stare attenti. Sì, saranno tre accordi, però sono quelli lì. Cioè, sì, quando Bob Dylan fa Desolation Row, sono quelli lì. E funzionano benissimo. No? Non è che siano, che valgano da accompagnamento alla musica. Quindi musica e poi la voce è importantissima. E persino la postura, persino il modo con cui uno sta sul palco è importante. In certi casi è eclatante, tipo nella canzone francese, Jacques Brel, che secondo me, mi è venuto in mente l'altra volta, secondo me è anche un modo di imbastardire, di rendere proprio cataclismatico il gesto, che però era anche in senso molto, molto classico, invece perfetto, in Yves Montand, per esempio. Sì, capito. Ho trovato delle somiglianze nella loro immensa differenza. Allora, adesso cosa facciamo? Cosa vuoi fare? Ma io adesso farei ancora, non so, un pezzo. Facciamo un pezzo da Tremon. Sì, e sì. Dopo dobbiamo fare quel pezzo che amo particolarmente, quello che Gianni Mura disse è sì. Uno dei più bei pezzi mai scritti in italiano. Magari ci saluta con quello, magari. Beh, adesso vediamo allora, quanto tempo abbiamo. Metti un pochino più piano di volume, magari, la chitarra. Perché sento... Sono tutte disquisizioni tecniche queste. È tutto dal vivo, disquisizioni tecniche dal vivo, chiaramente. Adesso Matteo no, riprende la chitarra elettrica. Ho scoperto da poco dove è la manopola del volume. Ecco. Sono homo tecnologicus. Cosa facciamo? Facciamo un pezzo che si chiama Anni 70, lo facciamo semplificato perché... Proprio... I fogli girano. Beh, intanto comincio io. Stretto in braccio, ora che passi il vento con il suo vecchio loden, bussando agli sportelli di farmacie di turno, mentre i santi innocenti stanno impallando Erode per non esser men belli. E tanto che i Boy Scout cominciano a cantare i cori extraterrestri del loro dio caduto. E la caccia al tesoro sconvolge il tuo rione fra luminarie accese, tu e il tuo orso musone. Entriamo nell'imbuto. Adesso che i Boy Scout intasano le strade dove la gente corre e l'orso si è strinato, qualcuno gira un film con le iridi in fiamme nel fumo che dirada appare sulla strada un sorriso laccato. Thank you. bellissima come sempre, bellissima come l'arrangiamento, e l'arrangiamento mi dà molto fascino, mi affascina l'uso che fa della chitarra elettrica, Matteo. Sì, noi facciamo questa cosa che non è molto canonica, di mettere insieme una chitarra a corde di nylon con una chitarra elettrica. In genere si fa con un'acustica, certo. Che ha funzione ritmica. Noi invece facciamo gli arpeggi con... Ecco. Ribadiamo il concetto di Dremon, caro Max. Questo è l'orso praticamente. Questo progetto che va avanti fino al 9 dicembre all'incirca. Va avanti la raccolta fondi fino al 5 di dicembre. 5 dicembre. Dopodiché, le jeux sont faits, rien va plus. Ma siete già dobbiamo messi. Aver raccolto 9.000 euro, se no tutto questo patrimonio di bellezza e di struggente andrà perduto. No, non è proprio così. Comunque, ma sta andando bene, dai. È utile se li raccogliamo, sta andando bene. Sì, siamo sui 7.000, quindi adesso. Siamo quasi al traguardo. Dai. E ci sono ancora più di 20 giorni, sì, appunto. Quindi. Sì, ce la facciamo. Sì. Direi che ce la facciamo se manteniamo Max, questa media. C'ho una domanda per te, sì. Da parte di Manuel Perasso, che probabilmente conoscerete. Insomma, lui è venuto già due volte qui con, con Antonio Clemente e con Zazza. E dice: volevo chiedere a Max se inserirà Tristano in Dremong. No. È un inedito che ho sentito una volta sola ad un suo concerto e l'ho trovata fantastica. Grazie. Nel prossimo, in questo disco ci sono abbastanza slow songs in questo disco. Ci sono abbastanza pezzi, diciamo, lenti. Che poi in realtà il pezzo lento può essere un pezzo di grande impatto. Wish You Were Here è un esempio, no? Certo. E Pink Floyd è lento, cioè a metronomo è lento. E quindi ci sono alcuni pezzi così. Poi ci sono anche dei valzerini, però non abbiamo voluto esagerare troppo, insomma, esagerare con i pezzi lenti. E Tristano è un pezzo lento, pianistico, e siccome ce ne sono già altri tre nel disco, pianistici sempre, questa volta no, però magari il prossimo disco sì. Tra l'altro sono affezionato a Tristano perché è il pezzo che piaceva di più ad Amilcare Rambaldi proprio, ed è quello che ho eseguito allora con Marco Spiccio e altri. Non è mai stato pubblicato in qualche disco Tristano precedente? Mai, assolutamente. Mai. Ho capito. Sì. Quindi ciao Manuel, sei stato... ciao Manuel. Bisogna aspettare Dremong numero 2 allora, Manuel. Quante canzoni hai messo nel Dremong? Ci sono 14 canzoni. Quindi un bel disco lungo, insomma. Eh sì. Anche perché quasi tutte su una media di 4-5 minuti, tranne una che è 2 minuti e mezzo e l'altra che è 7 minuti. Quindi arriviamo a 60, circa, 55. Infatti spero che riusciremo a farceli entrare nel vinile, altrimenti dovremo escluderne qualcuno. Se vinile è un minutaggio non eccessivo, purtroppo il vinile dà dei limiti di tempo, però lo vogliamo fare perché c'è un sacco di gente che è proprio affezionata all'idea, certo, del vinile e comprerebbe qualsiasi cosa. Max, siamo arrivati alla fine, sono le 22:25, dopo c'è Renato Ferro con la sua heavy metal. Allora, prima di salutarci, Max, i tuoi recapiti, come si può contattarti, il tuo sito, dove si può trovare il tuo disco? Il mio sito è www.maxmanfredi.com. Io sono presente con varie pagine su Facebook, due pagine personali e un paio di pagine, una pagina pubblica. La mia mail è maxmanfredi@libero.it. Il numero di telefono non lo do perché non vorrei che qualcuno mi facesse degli scherzi, ma soprattutto non vorrei che mi telefonassero tutti quelli dei call center. Sì, però in privato lo avrete, quindi insomma è molto facile raggiungermi. Mentre invece per fare questa offerta e prenotazione dovete andare sul sito di Music Riser, e mi trovate, mi sembra, come terzo fra quelli proposti. Comunque c'è scritto Dremong, c'è il filmino di presentazione, e quindi potete fare lì le offerte, tutto quello che volete. E poi il disco, quando sarà stampato, a parte il fatto di spedirlo a quelli che ce l'hanno già comprato, sarà disponibile sicuramente per posta. Poi ci saranno alcuni punti vendita prima ancora della distribuzione, e intendiamo portarne molti ai concerti. Ricordiamo i concerti, visto che ci sei. Questi sono i concerti che facciamo per il crowdfunding. Domani siamo a Verona alla nuova fontana, Fontana di Ciliegi mi sembra che si chiami, che so che è in via Valpolicella a Cairano. Quindi sei a posto? Dico bene? Sì. Valpolicella sei a posto? Sei a posto. Sì, sì, ma eravamo a posto anche prima quando era ad Avesa, perché sono molto gentili e quando ci fanno mangiare e bere sempre molto bene, quindi insomma ce ne fossero posti così. Certo. E infatti il bello di fare questi concerti in giro un po', diciamo, picareschi è proprio che spesso ci si trova molto bene e si diventa amici. Adesso abbiamo io... Ce la facciamo a fare? Sì, sì, sì, sì, bisogna, facciamo, abbiamo vai. spinto tacciamo Max, perché adesso, deve far sentire il pezzo che ha entusiasmato noi che eravamo a teatro un po' di mesi fa alla Ruzzante a Padova. Allora Max, noi ci salutiamo qui e ti ringraziamo di essere venuto a tutti, grazie dell'ascolto, vi aspettiamo ancora con il prossimo disco. Ricordate, Dremong vi aspetta al varco. Anche noi ti aspettiamo prossimamente. Io devo fare una comunicazione, diciamo, di servizio prima che sentiamo l'ultimo pezzo di Max. Questo è l'ultimo live per quanto riguarda il 2013 qui in studio a Padova, nei nostri studi di Blu Radio Veneto, perché c'è in atto una ristrutturazione, insomma abbiamo anche noi bisogno di farci un po' il look e quindi ne riparleremo prossimamente. A breve saprete un po' tutto, ma intanto comunque questa di Max è stata l'ultima esibizione live in acustico qui a Blu Radio Veneto. Un caro saluto da Agostino. E sarà la prima quando... Ah, certo, la prima del 2014. Un caro saluto da Agostino Spolaone, un caro saluto anche da Maurizio Cazzavara e buon proseguimento ad ascolti i programmi che continuano con Renato Ferro e la sua heavy metal. Però prima ci ascoltiamo la canzone di Max Manfredi che si intitola Il Regno delle Fate. Ciao. Una signora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino, scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno delle fate. Ed una rossa col cappotto che sorride al fidanzato che non vedo. E gli sorride, lo saluta ed improvviso piglia e sale sopra il treno. Io non li guardo mentre bacia il suo ragazzo, ma si vede che lo ama per davvero. Come si vede la stazione di Lambrate di Milano Rogoredo. E sono un re, ma sono un re che si dimentica le cose per la strada. E sono un re, ma sono un re che si dimentica le cose ovunque vada. È una ragazza nigeriana coi capelli che ha rubato ad una decalcomania. E il pendolare col portatile che dorme ancora un po' prima di scendere a Pavia. E due surfisti grunge che han girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se mi starebbero a sentire. E sono un re, ma sono un re che è stato già ghigliottinato dalla noia. E sono un re, ma sono un re che non ha niente a che vedere coi Savoia. E questi strilli di bambini capricciosi che le madri stanno presentando a Erode. E questi tori di bambini dentro i tori di ceramica che bruciano nel nome delle mode. E quanta polvere negli occhi e tutto intorno, non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere. Occuperanno tutti quanti posti chiave delle leve del potere. allora sì che rideremo quando tutto sarà immenso come un grande carnevale. E rideremo e bruceremo quei fantocci che vederli ci fa male. Allora sì che leggeremo tutto il mondo come fosse in filigrana. E sarà bello ad ogni brivido vedere come tremerà la scena. Staremo lì sotto le stelle sparse in cielo come un chilo di farina. E batteremo i piedi a tempo al freddo dall'erogatore di benzina. Ed entreremo in qualche cinema da Brugge dove ruscano gli amori. Ed usciremo da quel cinema e sapremo che eravamo noi gli attori. Ciao Max, ciao Matteo Naum, ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Buona serata.